Adesso in Campania quello che stiamo provando a fare, vediamo se riusciamo a mettere assieme, ma credo di sì, perché insomma ci sono stati dei primi momenti di discussione, in questo momento riservati, ma in questo momento io credo che un segnale forte vada dato proprio sul tema della disoccupazione strutturale. È un tema che in passato non si è voluto toccare, oggi siamo di fronte ad un dissesto economico e quindi alla impossibilità di andare a politiche di tipo assistenzialistico, di conseguenza avendo anche noi perso in Campania in 2 anni 200.000 posti di lavoro e avendo 150.000 lavoratori in mobilità in questo momento, l'assunzione di responsabilità delle parti sociali e delle parti economiche implica un atteggiamento di responsabilità nei confronti di questo tema. Quindi ricerca, formazione, lavoro, attività produttive, insomma devono dialogare tra di loro, sì, anche i rispettivi questo, assessorati. Una cosa insomma che non viene mai detta e che io invece vorrei sottolineare, lo status di disoccupazione nella nostra regione viene ancora autocertificato e non ci sono i dovuti monitoraggi, che non sono monitoraggi che uno può o vuole fare. La legge obbliga le province, quindi le province hanno una competenza istituzionale in materia di monitoraggio e controllo dello status di disoccupazione, basterebbe cominciare da questo. Questo stato di disoccupazione che viene autocertificato, sì, vuol dire in qualche modo l'illegalità, la longa manus della camorra in qualche modo c'entra oppure non c'entra assolutamente nulla? Ma c'entra nel momento in cui, andando a certificare quello status, tu ti accorgi di non avere un lavoratore disoccupato ma un lavoratore sommerso. Certo, e certo. Di conseguenza il più delle volte il lavoro sommerso in quella circostanza è un lavoro che ha, diciamo, prende altre direzioni. Accade soltanto nella provincia di Napoli oppure in tutta Italia uno si autocertifica lo status? No. Allora diciamo che l'autocertificazione può avvenire ovunque. Il problema non è l'autocertificazione, il problema è l'assenza di controllo. Assolutamente d'accordo con lei, Luci, un controllo nelle regioni del sud, in aree assolutamente, come dire, sottoposte a particolare vigilanza è senz'altro il benvenuto.